Ecco qua, sei in onda, abbiamo in onda Simonetta che ci parlerà brevemente di Franca Rame in questa pessima giornata. Sì, ricordiamo tutti Franca Rame perché è stata una donna che ha pervaso tutta la nostra generazione, parlo dai 60 anni in giù, perché è stata lei che già negli anni del 68, nel 77, insieme a Dario Fo, ha dato una forza eccezionale ai movimenti che cominciavano a uscire dal sopore, diciamo, degli anni bui del dopoguerra, e tutte le rivolte culturali e materiali che sono state fatte in quegli anni sono state accompagnate costantemente dal teatro e dalle novità che sulle lotte dei movimenti portavano avanti Dario Fo e Franca Rame. Franca è stata un sostegno grandissimo per Dario, ma anche per tutti noi. Colei che organizzava di scrivere ai detenuti nelle carceri, mandava addirittura una somma costante a tutti i detenuti, politici e non. Ha fatto le battaglie per la difesa delle donne, è stata anche violentata e stuprata da un gruppo di fascisti che all'epoca, negli anni 60-70, sì? Dicevo, questo va ricordato, che appunto la vendetta dei fascisti, insomma, è sempre... La vendetta di chi è donna che aveva avuto il coraggio di denunciare le violenze sulle donne, e denunciava anche quella deriva del Partito Comunista che alimentava le cooperative in Emilia Romagna, dove le donne venivano costrette dentro casa a fare la maglia, ossia la maglia da vendere delle cooperative, e ci fu uno spettacolo bellissimo dove facevano vedere l'alienazione di queste donne all'interno delle case, ingabbiate in questi lavori obbligati che dovevano fare perché dovevano produrre. E la donna invece è stata rappresentata da Franca anche nei momenti in cui viene posseduta, stuprata e violentata anche psicologicamente dalle convenzioni culturali che hanno permeato la nostra società. È stata una donna che ha avuto una forza eccezionale, che ha supportato le battaglie e anche il lavoro di Dario Fo, il quale sa benissimo che molte cose l'ha potuto fare perché Franca l'ha stimolato e l'ha condotto a prendere delle posizioni anche quando lui non voleva. E ricordiamo che Dario Fo è diventato anche premio Nobel, ma dobbiamo dire che Franca ne avrebbe avuto ben donde oltre che il premio Nobel, anche se poi come donna era anche abbastanza gocciuta, non accettava chi gli dava dei consigli se non erano in linea con la sua posizione. Ha avuto un passato politico comunque, diciamo, unito a quello di Dario, che era tipo marxista-leninista, di partiti che ormai non ci sono più. Sono stati dei compagni, lei soprattutto è stata una compagna, è stata una donna forte, è stata una donna che noi tutti ricordiamo perché a Roma è venuta molto spesso e privilegiava Radio Onda Rossa perché ci mandava i biglietti per andare al teatro, telefonava ogni volta che veniva per avvisare che arrivava a Roma. Certo, negli ultimi anni sia lei che Dario si sono legati di più anche a un teatro istituzionale e la televisione, che aveva perso perché molti oppositori dei regimi avevano fatto un'antica trasmissione che c'è stata in televisione, da dove furono mandati via, e lì cantavano una canzone che diceva l'Italia dei miracoli, l'Italia che parlava e non faceva mai veramente miracoli, bensì c'era chi rubava e basta. Non è cambiato niente. E noi ricordiamo oggi Franca come donna e come compagna, ma anche e soprattutto per la sua abilità e capacità anche teatrale, con la quale ha portato a conoscenza di tutti noi, dei giovani, dei movimenti, quali sono le condizioni degli operai, le condizioni delle donne, e in tutti i loro spettacoli, che spero che vengano riprodotti anche adesso tramite la televisione, sono spettacoli che hanno insegnato, oltre alla cultura, anche la lotta politica, hanno rappresentato, sono stati i primi nel 72, mi sembra, nel 71-72, sono stati i primi a portare dei ragazzi palestinesi nel teatro per rappresentare la lotta del popolo palestinese. A Roma vennero al Cinema Jolly, vicino Piazza delle Province, e Dario Fo e Franca Rame portarono i 15 giovani palestinesi che rappresentarono la lotta del loro popolo. Quindi un'attenzione massima, e lei era una grande organizzatrice, un'attenzione massima a tutti i temi che coinvolgono i giovani, la società e le lotte. Sono quasi troppe le iniziative che ha portato avanti. Insomma. Se bisogna parlare di quello che hanno fatto, sono troppe le iniziative. Però vogliamo comunque ricordare anche che Franca non ha mai lasciato, è stato il carcere e l'attenzione ai detenuti, che in questi giorni vediamo. Esatto, che diciamo, forse massima, sono stati i primi a pensare, diciamo, una difesa per i compagni arrestati che fosse, diciamo, sì, più strutturata. Sì, hanno sempre aiutato il Soccorso Rosso, del quale io facevo parte sin dal 68, hanno sempre partecipato anche alla redazione del libro La strage di Stato, ossia sono innumerevoli i loro interventi, anche se poi ogni tanto ci si scontrava per le loro contraddizioni o per le nostre, e a volte avevamo posizioni diverse, però devo dire che hanno dato impulso a centinaia di iniziative che erano interne alle esigenze del movimento, ecco. E Franca è stata una grande organizzatrice e trascinatrice di compagni e compagne che seguivano i loro spettacoli e le loro iniziative. Ok, quindi se non vuoi aggiungere altro. Ci sarebbe troppo da infatti sì, purtroppo sarebbero ore e ore. Mi dispiace tanto, purtroppo ormai anche lei è raggiunta un'età che non l'aveva detto, non ce la faceva più. Ma ci ha lasciato qualche cosa di molto importante, insomma, la memoria non va dimenticata. La memoria che ci ha lasciato, anzi vorrei, se fosse possibile, che si faccia una giornata in suo nome anche da parte delle compagne, perché è molto importante. Nel suo essere attrice era una donna molto profonda. Ok, quindi ti ringraziamo qui e ti salutiamo. Grazie. E anche se appunto con questa pessima notizia di questa mattina.